Un altro freestyle venuto dallo spazio. Un altro freestyle venuto dallo spazio. Che l'armonia sia con voi, nel nome del Padre, dello Spirito Santo, Amen. Che sia con voi, è il Vescovo che vi parla. Vescovo scuro, potete fare bla bla quanto volete, ma almeno ascoltate la messa. Sono il mistero che viene a farti il culo davvero. Puoi dire quello che vuoi, ma saprai che sono Satana quando mi vedrai nei tuoi sogni oscuri, e lì avrai paura, dovrai fumarti un bel po' di roba per dimenticare questa storia, lo sai? Tu credi sia facile, indistinguibile, impossibile, irrescibile quello che dico, ma difficile, complicato, astratto, molte volte sognato, molte volte enigmatico. Vedrai quello che potrai, con la lingua di un marziano saprai anche fare l'arte marziale senza aver imparato. Con la lingua di un marziano saprai volare, ancestrale, merito che nessuno vedrà perché sentirà solo uno che per la moltitudine blatera, mentre solo per qualcuno dice cose serie. Sarà che i valori vanno a giro sempre assieme, quindi tu sei fuori, ciao. Ti porterai la corona d'allori come me, come ho fatto, scriverai, non lascerai mai le tue preghiere, nel nome del Padre, dello Spirito Santo, Amen. Farai digestione di musica e scriverai ogni tua lirica sul quaderno, sfoglierai il tuo stesso sterno, andrai con la mano vicino al cuore, la stringerai per ore e chiederai dolore a Gesù Cristo per farti cantare, nel nome del Padre, dello Spirito Santo, Amen. Ci sono cose che non potrai capire altre, che lente e veloci sfumeranno tra i tuoi neuroni, sarà il migliore possibile pensiero che tu possa sperare, la danza magistrale del tuo essere eterno, essere senza video no, perché non voglio essere sprovvisto delle immagini che la memoria mi suscita. Una memoria creativa che dentro me ispira quadri e pensieri innati. Godeteveli e poi imparateli. Sappiamo essere duri quando ci chiedono di fare duri, ma anche seri quando ci chiedono di fare quelli che spiegano un mistero. E ci proverò con queste parole davvero a cercare di far capire quanto è dura freestyle con questa velocità, con questa natura disumana. Cercare poi la grana e non in filigrana, essere figlio di puttana che mi sputta tutti fuori, essere quello che tra gli occhi è il più stronzo, essere quello che porta a essere gli altri fratelli un po' più bravi. Sarò come se fossi gli orchi di questi trentenni che ormai dovranno aver meno paura e dovranno camminare a testa alta. E sarà dura camminare a testa alta, Padre nostro che sei nei cieli, salvami da questi pensieri. Padre nostro che sei nei cieli, salvami da questi pensieri. Vedo chimere e velieri tipo. Paolo Villaggio Striscio. Sono nella musica incartosciato, faccio a manca di dire che sono uno scemo, sai perché non è vanto, ma almeno è ritegno per me stesso, canto ciò che voglio di un canto, rimango qua, sto cantando per il mio spettro che si impossessi di me sia più forte delle medicine e meno forte della follia. Sarà questa vita che mi porterà via. Veglieri come Johnny Depp nel la primavera della prima luna, sbocceremo come un veliero gigante oltre natura, saremo degli angeli impudenti, irriverenti contro la società ridenti, perché ci vogliono ammaestrare, manco fossimo un cane su una navicella spaziale che stasera non porterà a casa. Stai col tuo zitto, testa bassa, se vuoi continuare questo viaggio, se no ti rinchiudo. Devi aver paura te stesso di ciò che farai, ma non dei tuoi. Sappi che loro ti vogliono bene, ti vorrebbero guarire nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Io sono il diavolo che chiede redenzione, di tornare nel cielo per una nuova creazione. Per una nuova creazione, nel nome del Padre, dello Spirito Santo, amen. Di tornare nei cieli per una nuova creazione. Perdonami, Dio, guariscimi dall'oblio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, salvami dalla dannazione, Dio. Messe scure, anime bianche.